歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏1998年在北京太庙演出的普提尼的歌剧《图兰朵》的实况录音，由托祖拉、拉林、富利托利等演唱，祖宾梅塔指挥意大利佛罗伦萨节日歌剧院演出，张艺谋导演。 Perduto la battaglia vecchio re senza regno e fuggente. Una voce sentì che mi diceva: vieni con me, sarò tua guida per lì. Affronto e asciugava il pianto, mendicava per me. Io, chi sei? E perché tanta angoscia?

non son più chiare degli individui di Tolento. Ferro, bronzo, muro, roccia, moschina, la tua capoccia, son venturi degli individui di Tolento. Dunque fa saluto a tutti, porca i monti, dalle flutti, dalla larga, dagli individui di Tolento. piangere giù, se in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso. Thank you. funesto con testa la reggia e desta la città. Si affronti ad ogni evento, se lo straniero vince per le nozze e se gli perde per seppellimento. Io preparo le nozze di allesegue, le rosse lanterne di festa e bianche lanterne di lutto. Gli incensi e le offerte, gli incensi e le offerte, levite di carro, la cima strade, il pepe palanchino scaldante, nel fatto di panti che cantano, di panti che gemono, e tutto quanto il resto secondo il rito minuzioso, minuzioso, infinito. You can't let me go. città dei principi regalti s'amarcata. Fece la sua domanda e con quale gioia gli mandò il boia. Il boia e l'indiano gemmato Sagarica con gli orecchi di come campanelli. Amore chiese fronte il capitano e il prince dei kirghisi. Uccisi, uccisi, uccisi, uccisi. E il tartaro dall'arco di sei cubiti, i ricchi e felicito, estinto, estinto. E decapita, uccidi, estinto, ammazza, uccidi, estinto, ammazza, uccidi, estinto, ammazza. Thank you. Si compio il tuo Forgia la scura, la superba testa.